Me padre al fa il mulita e mi fa il muliti, me padre ciappa i soldi e mi ciappi i quattri, e sin e sola e fa girare la mola, e ciò che mi consola è l'arte del mulà. E sin e sola e fa girare la mola, e ciò che mi consola è l'arte del mulà.